Fabrizio è andato via di casa. Sei democratico? Oh, dico, sei democratico? Sei democratico? Get fresher than this. Attenzione anche a quel duello, a quella dose di credibilità che può servire. DJ Y è un po' la personaggio un po' bohemien della musica elettronica torinese. No, non direi, no. Non direi questo, se, scusami se ti contraddico. What more can I say?